storia e la memoria di Dino Pesole. Anno cruciale il 1989 per la storia della sinistra in Italia e nel mondo, dalla caduta del muro di Berlino agli eventi che si susseguirono fino alla dissoluzione dell'ex Unione Sovietica e, per soffermarci su quel che avvenne in Italia, alla decisione dell'allora segretario del Partito Comunista Achille Occhetto di annunciare il cambiamento del partito con la proposta di abolire il termine comunista. Eventi che hanno cambiato il corso della storia nella fase finale del Novecento e che in Italia hanno avuto ripercussioni profonde. Oggi ripercorriamo le fasi salienti di quel percorso attraverso gli scritti di uno storico dirigente della sinistra italiana, Pietro Ingrao, che ha da poco compiuto 100 anni. A condurci per mano in quegli anni decisivi è la raccolta di saggi e interviste di Ingrao, raccolti nel volume Coniugare il presente, l'89 e la fine del Partito Comunista Italiano, scritti 1989-1993 a cura di Maria Luisa Boccia e Alberto Olivetti, appena pubblicato da IDS. Diversi per genere, forma e destinazione, la maggior parte degli scritti affronta i temi e le vicende che si svilupparono a partire dalla svolta dell'89, come venne allora chiamata, e che aprì ad anni densi di avvenimenti, dall'implosione dell'Unione Sovietica alla guerra del Golfo, all'unificazione tedesca sul piano internazionale, dalla fine del Partito Comunista Italiano alle inchieste giudiziarie sulla corruzione politica e agli effetti che esse ebbero sulla scomposizione e ricomposizione dei partiti e del sistema politico italiano, all'affermazione del neoliberismo in ambito economico e sociale. Gli argomenti del libro, in particolar modo le valutazioni sulla fine del Partito Comunista Italiano, sollevano questioni tuttora controverse, sia in ambito di giudizio politico, sia riguardo a una valutazione di ordine storico e culturale. Obiettivo del libro è fornire uno stimolo alla riflessione sulla storia recente, sulle cause che hanno determinato le forti discontinuità che contrassegnano la situazione italiana odierne. Dalla crisi della sinistra alla perdita di senso e di funzione della politica, intesa come agire collettivo, ovvero della politica come l'ha vissuta e pensata Ingrao dall'interno della storia del Novecento e in particolare della difficile costruzione della democrazia nel nostro paese. Allora, Maria Luisa Boccia, ci racconti un po' nel dettaglio cosa emerge da questo interessante libro che riporta gli scritti di Ingrao su un periodo cruciale per la storia della sinistra italiana e non solo della sinistra italiana, del mondo intero, direi. Sì, certo, e infatti credo che uno degli aspetti più importanti è l'attenzione che Ingrao ha dato in quegli anni a quanto accadeva sul piano internazionale, non soltanto quello che accade nell'Unione Sovietica dopo la caduta del muro di Berlino, l'implosione, no, dell'Unione Sovietica, ma gli effetti che questo ha in Europa e nel mondo, perché finisce tutto un assetto mondiale. Uno degli effetti più immediati è anche la guerra nel Golfo, su cui Ingrao è ancora alla Camera, è ancora deputato, è proprio il suo intervento in dissenso con la posizione ufficiale del partito che avviene in quell'occasione, è credo l'ultimo intervento che lui fa in aula, in Parlamento. L'altro aspetto che mi sembra che mi emerge con molta forza è che la preoccupazione di Ingrao è soprattutto quella di legare sempre il che fare, quindi l'agenda politica, le scelte che urgono su tanti piani, appunto dai problemi internazionali europei, alle questioni del lavoro, alle questioni politiche. Dopo tre anni dopo l'89 c'è l'esplosione di Tangentopoli in Italia, no? Quindi sì, il fenomeno della corruzione. Ecco, legare il che fare rispetto a quello che accade, a tutti questi eventi che sono anche molto seri, grandi, insomma, di una certa rilevanza, con la riflessione e la necessità di avere una chiave di interpretazione, una cultura, una lettura della realtà. Noi abbiamo scelto questo titolo, Coniugare al presente, perché lui insiste che il suo punto di vista, il punto di vista critico, è necessario per interpretare gli avvenimenti. Che non bisogna, la politica non può semplicemente gestirli, assecondare, no? Trovare un assestamento, deve leggere e orientare, intervenire per orientare le vicende. Infatti, umane. Poi lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il libro viene pubblicato in occasione del centenario di Ingrao, e quindi, come dire, un omaggio anche a una figura storica della sinistra italiana, quindi fornire uno stimolo alla riflessione sulla storia recente, quindi si legge nell'introduzione. Esatto, questo è stato il nostro intento. Devo dire che abbiamo avuto su questo una risposta, un'attenzione molto forte, perché il libro è una delle iniziative che abbiamo fatto. Abbiamo avuto vari incontri, due alla Camera, uno era sulla presidenza di Ingrao della Camera, altro sulla sua figura politica in generale, e abbiamo avuto una mostra e l'inaugurazione di una mostra di ritratti di Ingrao, la discussione intorno a questo libro. In tutte queste occasioni c'è stata una forte attenzione e coinvolgimento di pubblico, e anche da parte degli interlocutori, di chi è intervenuto, ha parlato, e si è molto sottolineata come la figura di Ingrao è una figura complessa, ha più facce, non univoca, e che è stato un protagonista della vicenda, della storia proprio di questo paese. Questo mi sembra che sia stato importante, perché diciamo che riconosce l'importanza della radice della storia per la politica di questo paese, cosa che non sempre viene valorizzata come sarebbe necessaria. A me sembra che una delle caratteristiche principali del libro, della figura di un dirigente del calibro di Pietro Ingrao, sia quella che ci impone una riflessione su come oggi, ad esempio, si fa politica e quali siano le profonde differenze rispetto all'impegno, come dire, a tutto campo, che è anche un impegno etico, culturale. Forse in questo, devo dire, abbiamo da recuperare molti valori, molti insegnamenti del passato. Penso anch'io, ma soprattutto più che valori, diciamo, in sé, è che proprio questo coniugare l'esigenza del fare, che viene richiamata continuamente, no? Dobbiamo fare, dobbiamo fare, dobbiamo fare, e però sembra fine a se stesso, fare per fare, intervenire, per cui magari si producono leggi e poi dopo pensi alla Fornero e poi le si devono smantellare, la legge Fornero sulle pensioni, no? Per poi doverle smantellare, e perché non hanno, sono state fatte di fretta, sull'urgenza. Invece mi sembra che l'insegnamento più forte è che non si può fare una politica, un fare di qualità, un fare che sia in grado davvero di affrontare i problemi e di durare, di dare risposte durevoli, di incidere e di cambiare quello che non va, in un senso però efficace e durevole. Questo richiede appunto cultura, pensiero, riflessione, confronto. Ingrao un'idea della democrazia pluralista in cui il Parlamento non è una sede in cui si vota e basta, come si fa oggi, su decreti fatti dal governo. No, il Parlamento è un luogo di confronto fra culture, punti di vista, proposte, progetti diversi rispetto ai problemi. Questo non c'è più, non avviene più. Questo è un impoverimento, una riduzione molto forte. Visto dall'ottica di un dirigente del calibro di Pietro Ingrao, qual è lo stato di salute della sinistra italiana in questo momento, a suo avviso? Mi scusi, ho sentito. Le chiedevo, visto dall'ottica di Pietro Ingrao, qual è secondo lei la sua valutazione sullo stato di salute della sinistra italiana oggi? No, guardi, nell'ultimo testo che noi abbiamo messo, che è comunque, certo, non è recente, del 93, lei ce l'ha una risposta a questo, perché già allora, devo dire in modo un po' profetico, Ingrao vede la crisi della sinistra soprattutto in due fattori: il distacco tra il sistema politico, i partiti e la società, quindi poi le condizioni di vita delle persone e i problemi della vita degli uomini e delle donne di questo paese, e questo che c'è sempre più un'autoreferenzialità dei partiti e del sistema politico, e l'altro è proprio la frantumazione prevalere delle logiche di divisione nella sinistra in particolare. Già la vicenda dell'89 lui la diede luogo, no, a una scissione, a una separazione tra chi andò della vita di Fondazione Comunista e chi è il Partito Democratico della Sinistra, e lui contrastò anche per la sua parte politica, quella che si apponeva alla scelta del segretario Occhetto, contrastò la scissione e usò questa formula, stare nel gorgo, per dire che bisognava cimentarsi appunto nel confronto anche con gli altri, no? Cioè con chi non la pensa come te. E poi dopo, anche quando decide di uscire, perché appunto dal PDS, perché no, dice non in questo partito non mi riconosco più, non è più un partito che risponde a scelte di sinistra, già allora, però ha molto chiaro qua la deriva della frantumazione. La ringrazio molto per essere stata con noi e buona serata. Grazie anche a lei, buona serata.